in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light. Nel cuore resterà, and hold it in our heart. A ricordarci che when stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede c'è, which shall fill our day. Lead us to a place. Guide us away the old grave. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Sento che ci salverà.